Mi chiamano a grado, perché per tutta la vita ho sempre cercato di rendere la vita gradevole agli altri. Oltre che gradevole, sono molto autentica. Guardate che corpo. Tutto fatto su misura. Occhi a mandorla, 80.000. Naso, 200. Buttate nell'immondizia, perché l'anno dopo me l'hanno ridotto così con un'altra bastonata. Lo so che mi dà personalità, però se l'avessi saputo non me lo toccavo. Continuo. Tette, 2, perché non sono mica un mostro. 70 ciascuna, però le ho già super ammortizzate. Costa molto essere autentica, signora mia, e in questa cosa non si deve essere tirchie, perché una è più autentica quanto più assomiglia all'idea che ha sognato di se stessa. Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. Di Matteo Caccia. A distanza di pochi metri, perché era un tavolo vicino al nostro, insistentemente mi guardava. Sono gli occhi che mi rimangono ancora nella mente. Sembrava ipnotizzata. Forse pensai era la prima volta che vedeva davvero un occidentale bianco. Ero quasi in imbarazzo. Fortuna che il marito mi voltava le spalle. Storie di fraintendimenti e di sesso a pagamento, in una puntata tutta dedicata alla lussuria. Perché una è più autentica quanto più somiglia all'idea che aveva e ha di se stessa. La cominciamo così, questa puntata di Linee d'ombra dedicata alla lussuria, recitando l'inizio di questa puntata con quello splendido monologo di A Grado che trovate in quel film magnifico che è Tutto su mia madre. La cominciamo così perché la puntata di oggi racconta storie molto diverse, anche se è tutta dedicata al vizio della lussuria. Vi ricordo che questo è un programma che racconta quello, racconta storie dedicate ai vizi capitali, quelli vecchi e quelli nuovi, quelli che di fatto creiamo, ci immaginiamo di creare grazie alle vostre storie. La puntata di oggi però appunto parla di quello, però non è dedicata a un'unica storia, lo facciamo sempre, cerchiamo di mettere insieme più storie diverse per raccontare un vizio, per raccontare quella linea d'ombra che separa il giorno dalla notte, che separa la nostra parte razionale da quella irrazionale, spesso più istintiva. E appunto ci sono due storie, almeno due storie. Partiamo con quelle che più si avvicinano all'idea di lussuria. Abbiamo due diari oggi, addirittura non uno ma due diari, il racconto di due donne che hanno fatto o fanno le prostitute nella vita in maniera diversa, lo capirete il perché. La prima di fatto lo fa perché è molto giovane, perché ha una vita sbandata, perché si ritrova a farlo quasi per comodità. L'altra invece è quella che verrebbe definita una escort di lusso ed è proprio il titolo di questo libro, Diario di un escort di lusso. È la storia di una donna che si trova a Londra, che prova piacere nella sessualità e si ritrova a farlo per mestiere, un po' perché Londra è una città molto costosa, un po' perché lei ammette è molto più comodo fare quello piuttosto che lavorare dietro un bar, lavorare dietro al bancone di un bar e fare la cameriera. Sono due storie molto diverse ma che si somigliano da quel punto di vista lì, perché ci sono due donne che hanno scelto, se si può dire scegliere, di fare il mestiere più antico del mondo. La prima storia invece è una storia che parla di lussuria ma in realtà parla di un fraintendimento legato alla lussuria. L'avete sentito in apertura la voce di Giuseppe, che è l'autore di questa storia. Lui a un certo punto si trova in un ristorante solo alla fine di questa storia, che in realtà comincia molto molto prima, e vede che questa donna lo guarda in maniera che lui immagina essere bramosa, essere desiderosa di qualcosa, di quello che di solito accade quando un uomo e una donna si guardano intensamente, anche se lei è in compagnia, anche se lei è con il marito in un ristorante. In realtà poi quello sguardo vorrà dire altro, ma non voglio spoilerarvi, non voglio dirvi come va a finire, perché appunto questa storia comincia molto molto prima di quello sguardo al ristorante. È Linee d'ombra, raccogliamo le vostre storie, raccontiamo le vostre storie che hanno a che fare con i vizi capitali, mandatecele a lineedombra@radio24.it e noi ci facciamo una puntata, fate proprio come ha fatto Giuseppe. Benvenuti a Linee d'ombra. Sono nato in una fredda sera del febbraio 1944. La nostra era una casa colonica al margine di una piccola valle a forma del palmo di una mano. Un limpido ruscello sembrava disegnarne la linea del cuore. Non era un periodo felice. C'era la guerra ed era molto vicina. Il fronte fermo a Cassino disegnava la sua linea rossa verso l'Adriatico sul fiume Sangro a non più di 10 chilometri in linea d'aria dalla mia casa. Ogni sera, all'imbrunire, cominciava il bombardamento d'artiglieria. Gli alleati bombardavano la città, Chieti, con l'intento di colpire la sede del comando tedesco e fiaccare la resistenza della popolazione. Appena dopo la mia nascita, quella sera, una granata cadde a non più di 100 metri dalla nostra casa. Aveva ragione mia nonna a dirmi poi, da bambino, che ero nato con una cannonata. La situazione durò fino a primavera inoltrata. Mio padre raccontava che mi copriva la testolina con il cuscino quando la sera sentiva in lontananza la salva dei cannoni. A maggio inoltrato, alla caduta di Cassino, il fronte si mosse verso nord. Fu scongiurato per noi lo sfollamento grazie all'opera meritoria dell'arcivescovo Venturi, che riuscì a fare dichiarare Chieti, proprio come Roma, città aperta. E fu la liberazione. La domenica successiva, con le campane che suonavano a festa, la mia famiglia raggiunse la città per la messa. Mio padre era nella riserva e all'8 settembre si trovava a Teramo e quindi praticamente non partecipò a nessun atto di guerra, perché arrivò l'armistizio prima che questo reparto di riserva venisse impegnato in battaglia. Mia madre andò in cerca di mio padre, che non tornava da dopo l'8 settembre, mentre tutti gli altri giovani soldati erano tornati a casa, e quindi si incamminò con il pancione da Chieti fino a Teramo. Fece un tratto in treno, ma poi fece circa 30 chilometri a piedi con me nel pancione. La liberazione fu davvero, nel vero senso della parola, la possibilità di riprendere la vita normale. In prossimità della nostra casa si era intanto accampato un reggimento di Sepoys, il contingente di soldati indiani dell'esercito coloniale inglese. Di ritorno verso casa, mio padre e mia madre, con me in braccio, incontrarono un gruppetto di questi, con le loro divise, molto appariscenti, e i tipici turbanti in testa. La nostra giovane famigliola, con me piccolino vestito di bianco, deve aver suscitato simpatia e nostalgia a quei giovani così lontani da casa. Fecero capannello e cominciarono a far festa in una lingua per mio padre e mia madre totalmente sconosciuta. Mia madre specialmente era molto timorosa nel vedere quei soldati con la carnagione così scura. Il timore diventò terrore quando il sottufficiale indiano volle prendermi in braccio. Mia madre, terrorizzata, pensava che mi avrebbe sporcato il vestitino bianco. E poi la vita andò avanti. La mia famiglia crebbe. Nei 2 anni successivi arrivarono i miei 2 fratelli e con loro tanti sacrifici per crescerci e mandarci a scuola. Io ero molto bravo, così proseguii dopo la scuola media e mi diplomai perito industriale. Fui selezionato per un corso IRI per tecnici superiore e subito iniziai la mia attività lavorativa in una grande azienda. Mi sono sposato con una splendida ragazza con gli occhi verdi e presto la famiglia, di cui vado molto orgoglioso, crebbe con l'arrivo di 3 bellissimi figli. In quel periodo, lavorando, sono riuscito a laurearmi e poi, con grande impegno, ho fatto un'ottima carriera, raggiungendo una posizione direzionale in azienda. Poi arrivò la privatizzazione e per me la necessità di ricominciare da capo. Un giorno mi fu chiesto di effettuare un survey di un impianto a Surat, in India. Vi arrivai da Bombay in treno e lì trovai ad aspettarmi un guerriero della casta indù con tanto di baffi e barba e un bellissimo turbante in testa. Ero stato l'anno precedente in India a Bangalore, che già allora si presentava come una città moderna. Ecco, Surat era tutt'altra cosa. Breakfast in cemetery, boy tasting wild cherry, touch girl apple blossom, just a boy playing possum. We'll come back for Indian summer, we'll come back for Indian summer. We'll come back for Indian summer, running the breadway. What is that cheerful sound? Rain falling on the ground. We'll wear a jolly crown. Buckle up, we're wayward bound. We'll come back for Indian summer. We'll come back for Indian summer. We'll come back for Indian summer and go a separate way. Dalla stazione dovemmo attraversare la città trovando su una piazza un ingorgo pazzesco. Camion, motorini, tuk-tuk, mucche sacre e un elefante. Il giorno dopo visitai l'impianto e poi partecipai ad una riunione dove presentai proposte di miglioramento di tutti i macchinari. Naturalmente fui invitato a pranzo e con il guerriero raggiungemmo il ristorante della foresteria della società. Su un tavolo vicino al nostro pranzava un signore, presumo un dipendente della società, con la propria famiglia, una donna anziana, forse madre di lei, un ragazzino di 10-11 anni e una bellissima signora, nel fiore degli anni, con il tilaka, quel pallino rosso che separa le sopracciglia di due luminosi e grandi occhi neri. Subito mi accorsi che prima di sfuggita e poi sempre più intensamente, lei mi osservava. Ad un certo punto ebbi la sensazione che volesse letteralmente mangiarmi con gli occhi. Sembrava ipnotizzata. Forse, pensai, era la prima volta che vedeva davvero un occidentale bianco. Io ero quasi in imbarazzo. Fortuna che il marito mi voltava le spalle. Ad un certo punto la signora si alzò per recarsi alla toilette. Calcolai il tempo e ci andai anch'io. Fu una cosa quasi istintiva. Più che altro era curiosità. Quando si alzò, istintivamente mi venne l'idea di fare questo fugace incontro, che probabilmente è stato anche un caso che si sia verificato, perché poteva anche darsi che non ci fossero stati tempi giusti per l'incontro nell'anticamera dei bagni, ecco. Ci incontrammo nell'atrio, incrocio di sguardi, un sorriso, e prontamente le detti il mio biglietto da visita che lei fece sparire fra le pieghe del suo sari. Di ritorno in Italia ripresi le mie normali occupazioni. Circa un mese dopo ricevetti una lettera. Veniva dall'India, da Surat, senza indicazione del mittente. Ed era lei, la signora del ristorante. In un inglese elementare ma scorrevole, con una calligrafia molto curata, si presentava e, quasi a scusarsi, chiariva la sua insistenza nel guardarmi. Ranita, questo è il suo nome, cercava di capire la mia provenienza. Americano, inglese, tedesco. La sua sorpresa fu quando dal mio biglietto da visita capì che ero italiano. Con enfasi, nella lettera mi raccontava che da piccola si era innamorata dell'Italia dai racconti di suo nonno che, in guerra, era stato in questo bellissimo paese dove gli abitanti, molto socievoli, li accoglievano festosamente. Fra i tanti episodi, Ranita era rimasta affascinata dal racconto di un incontro del nonno con una famigliola e dell'incanto di avere preso in braccio un piccolo bambino tutto roseo vestito di bianco. Sì, Ranita era la nipote del soldato che mi aveva preso in braccio. Dicevo in apertura di puntata, questa è una puntata sì dedicata al vizio della lussuria, ma la prima storia che ci ha raccontato Giuseppe, che vi abbiamo raccontato noi, in realtà parla di un fraintendimento lussurioso, e dietro questo fraintendimento c'è una storia magnifica. Pronto Giuseppe, buongiorno. Buongiorno Matteo. Come stai? Bene, grazie. Senti, questa storia è veramente splendida, perché sembra... tu di fatto sei il protagonista di una, quasi di una favola che un nonno raccontava alla nipote in un altro continente, giusto? Sì, è vero. Cioè, sì. Prova a riraccontarla questa storia. In sostanza tu sei bambino, sei appena nato, la tua famiglia di fatto si è appena liberata dalla guerra, così come tutta l'Italia, e incontrate, sì, tu ci sei, ma sei giovanissimo, sei un bambino, incontrate sì. Un manipolo di soldati indiani. Tra l'altro io credo di aver sbagliato la pronuncia. Come si pronuncia il reggimento indiano? Sipai, qualcuno dice in inglese. Ok, Sipai o Sipai. Insomma, è un nome che gli inglesi davano alle truppe appunto coloniali di quel tempo. Ok, che erano in appoggio agli alleati in Italia. Sì. Uno di loro, insomma, ti vede minuscolo, vestito di bianco, ti prende in braccio. Sì. E insomma, la storia finisce lì. A distanza di anni tu incontri la nipote di quest'uomo che ti aveva preso in braccio, che le aveva raccontato, esatto, di quanto avesse amato l'Italia e soprattutto di questo aneddoto. Cosa hai pensato quando hai letto la lettera di questa donna? Cioè, al di là della casualità, del fatto che il mondo è piccolo, di quelle banalità, come ti sei sentito tu, Giuseppe? Ma dunque, è stata un'emozione fortissima. Quello che mi è dispiaciuto è che la cosa è finita lì, perché non c'erano riferimenti, forse per un motivo di serietà della signora, nel certo. Senso che non ha voluto proseguire nella cosa, ma soltanto raccontare e quasi giustificarsi di questa situazione che si era venuta a creare al ristorante, quel giorno al ristorante, con questo sguardo. Effettivamente io ho pensato che in un certo momento non era soltanto curiosità o simpatia, certo, era addirittura qualcosa di lussurioso, insomma. Sì, è chiarissimo. Nella storia tu lo dici molto chiaramente, anche perché, insomma, sei in un locale pubblico, ci si guarda intensamente da tavolo a tavolo. Non capita tutti i giorni, però uno, esatto, si fa un po', esatto, anche un po' con l'idea di. In altri ambienti si sarebbe detto che fosse stato un colpo di fulmine fulminante. E invece, appunto, era la sorpresa di questa donna che probabilmente, lei cosa ti ha detto? Ha riconosciuto i tratti o semplicemente ha immaginato che tu potessi... No. Lei nella lettera lo spiega benissimo, era affascinata da quest'uomo, okay, bianco. Ma la sorpresa per lei, ed ecco il motivo per cui mi ha scritto, altrimenti probabilmente non l'avrebbe neanche fatto, era che tu fossi italiano. Il biglietto da visita, certo, hai finalmente capito che ero italiano. Ok, quindi in realtà quindi ha ricordato tutti i fatti che il nonno le raccontava. Quindi in realtà lei non sa che tu sei esattamente quel bambino, non hai avuto modo di dirglielo. No, assolutamente no. Lo sappiamo tutti noi, ma non lei in pratica. Non lei, purtroppo, anche... da un certo punto di vista, perché senti, è una favola con con un attore che la conosce e un'altra no. Certo, insomma, il protagonista la storia sa tutto e invece chi l'ascoltava non lo sa. Tu, tra l'altro, essendo così piccolo, la storia dell'incontro con i soldati indiani ti è stata raccontata, evidentemente. Avevo 3 mesi, quindi quella storia è un racconto di un racconto, quindi mamma e papà che mi raccontano di quell'episodio. Certo, assolutamente. Mi raccontarono questo episodio quando ero ragazzo. Tu hai vaghissimi ricordi, quindi, del periodo successivo alla guerra, immagino? No, proprio una cosa proprio che si perde nella foschia dei ricordi è un pacco, lo chiamavano un pacco Urra, ma eravamo già nel 47-48, quindi avevo già 3-4 anni, certo. Di fatto, con il formaggio giallo americano, che rispetto al nostro pecorino casalingo ci sembrava assimilabile al sapone. Sì, il pacco Urra me ne ricordo, insomma, erano i racconti anche di mia nonna, dei pacchi degli americani che arrivavano per gli italiani. Giuseppe, ti ringrazio molto per averci raccontato questa storia e per averci anche ricordato di fatto un po' di traverso un periodo che è dietro l'angolo, ma di fatto fatto ce lo siamo quasi dimenticato, che è quello che ha seguito la seconda guerra mondiale. Ma sì, 76 anni ormai. Ammazza, c'hai una voce giovanissima però ancora, Giuseppe. Complimenti. Sei in pensione, vero, ormai? Sì. Sì. Ok. Grazie ancora, Giuseppe. In bocca al lupo per tutto. A presto. Ringrazio te e arrivederci. Ciao, a presto. Ora sentiamo le borse in diretta e poi torniamo qui a raccontare a Linea Dom. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta. Lo sapevi? Gli ebrei riescono a leggersi nella mente. È considerato uno dei migliori film dell'anno. Ma come fai a riconoscerne uno? Potrebbero sembrare come noi. Candidato a 6 premi BAFTA. Non sei un nazista, sei un bambino di 10 anni a cui piace indossare una buffa uniforme e che vuole fare parte di un gruppo. Jojo Rabbit, dal 16 gennaio al cinema. Ehi, Flowey, scarica le PEC e smistale ai destinatari corretti. Flowey, i documenti in uscita sono firmati digitalmente? Flowey, hai protetto le comunicazioni con dati sensibili? Flowey? Flowey è la soluzione DocFlow a cui non devi chiedere nulla. Classifica, smista e mette al sicuro automaticamente le PEC grazie all'intelligenza artificiale. Flowey, FLOWEE. Scopri di più su flowey.net. Questa è la segreteria di Paolo. Al momento non è raggiungibile. Si sta rilassando con i sedili Advanced Comfort di SUV Citroen C5 Aircross. Ti preghiamo di non lasciare nessun messaggio. Grazie. Disconnettiti più spesso. SUV Citroen C5 Aircross. A gennaio tuo da 19.950 euro. Anche domenica. Info su citroen.it. Citroen. Gli abbiamo dato tanto, troppo, tutto. Tutto sì, ma non Credit Reform. Il gruppo Credit Reform, con un fatturato di 550 milioni di euro, è la prima società di informazioni d'Europa ed evade ogni anno più di 16 milioni di informazioni commerciali e 500.000 aggiornamenti gratuiti a 170.000 clienti. Un servizio unico, completo, sicuro. Grefo Cert, il certificato rilasciato da Credit Reform, rafforza la tua posizione con clienti e fornitori. 800-425-325 o creditreform.it. Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. In questa puntata che parla e racconta di lussuria, dopo la prima storia che di lussurioso, lo avrete capito, ha solo un fraintendimento, mentre la storia vera e propria racconta di un episodio dolcissimo, la seconda va molto a fondo nel tema della lussuria, al punto che sentiamo il racconto di una prostituta molto attiva nell'attivismo in difesa dei diritti della categoria, che qualche tempo fa ad una giornalista di Vice ha raccontato come ha iniziato a fare questo mestiere. È la storia di Lucy Foster, raccontata dalla sua stessa voce. State con noi. Tutta la vita che lavoro a intermittenza nell'industria del sesso. Ho cominciato da adolescente, l'ho fatto per 6 anni. Poi mi sono fermata per 12 anni. Allora non pensavo che avrei mai ricominciato. Ora ho un altro lavoro da freelance, ma la maggior parte dei miei introiti vengono proprio dal sesso. Sono cresciuta in una cittadina inglese, più o meno a partire dai 13 anni ho, come dire, deragliato. Andavo ai rave, prendevo droghe, mi consideravo una party girl. A volte facevo uso di droghe anche a scuola. Non ho ancora bene analizzato tutto quello che succedeva allora, ma penso che se ci fosse stata più consapevolezza della salute mentale e dei suoi problemi, le cose avrebbero potuto andare diversamente. A 17 anni sono andata a vivere ad Amsterdam con alcuni amici. Eravamo giovanissimi e per molti aspetti era divertentissimo. Il mondo intero era una festa continua e potevamo farci in continuazione. Non penso di avere mai speso soldi miei per della droga fino ai 25 anni. Me la pagavano sempre gli altri. Ho trovato un lavoro come ragazza alla pari e la famiglia con cui vivevo non sapeva niente di questa vita. Io stavo fuori tutta la notte. Rientravo di nascosto alle 8 del mattino. Mi sedevo sul letto. Me la facevo scendere per qualche minuto, poi fingendo di essermi appena svegliata, andavo a preparare la colazione ai bambini. Lavoravo lì da un paio di mesi, penso che a quel punto avessi compiuto 18 anni, quando un giorno ero ferma su un marciapiede ad aspettare il tram. Me lo ricordo chiaramente, anche se ormai sono passati più di 20 anni. Mi ricordo anche cosa avevo addosso: una maglietta a righe, pantaloni larghi, scarpe Adidas, i capelli che avevo lunghi e castani con la riga in mezzo. Ho visto una coppia superarmi su un'auto, un'utilitaria, un uomo e una donna. mi hanno guardato. All'improvviso ho capito che cosa stava per succedere. L'uomo è uscito dall'auto ed è venuto verso di me. Mi ha detto: «Ti stavamo guardando, sei bellissima. Potresti stare in una qualunque città del mondo». Mi ha chiesto quanto guadagnassi e gli ho risposto circa 50 euro a settimana. Lui mi ha detto: «Se vuoi guadagnarne di più, questo è il mio biglietto». E mi ha allungato una banconota con un numero. Quel giorno stesso sono andata ad una cabina del telefono e ho chiamato. Ho fissato poi un appuntamento con una donna dell'agenzia di escort e quando l'ho incontrata in un albergo ricordo di aver pensato che fosse la persona più elegante che avessi mai visto. Aveva delle unghie bellissime e lei era bellissima. Mi ha detto che aveva fatto la escort anche lei fino a quando si era innamorata del suo protettore e ora lo aiutava con l'agenzia. Mi ha detto che cosa fare ad un appuntamento. «Entri nella stanza», mi ha detto. «Hai indosso della biancheria sexy. Suggerisci al cliente di farvi un bagno insieme». Sono uscita da lì e sono andata a taccheggiare della biancheria. Poi mi sono presentata al primo appuntamento. È stato con un ragazzo inglese in un albergo economico dietro la stazione centrale. Avrei preso 50 euro all'ora, che al tempo mi sembravano un sacco di soldi. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, sono entrata nella stanza e ho cominciato a sentirmi strana. Ho ricordato quello che mi aveva detto la donna e mi aveva suggerito che facessimo un bagno insieme. Quindi siamo andati in bagno, era minuscolo. Siamo entrati nella vasca e siamo rimasti lì seduti con le gambe al petto. Io mi sono resa conto che lui era un po' divertito dal fatto che fosse così evidente che era una prostituta davvero poco esperta. Non mi sentivo per niente sexy, mi sentivo solo ridicola. Dopo un po' siamo usciti e non ricordo di aver fatto del sesso con lui, ma so che l'abbiamo fatto. Allora avevamo un autista che ci aspettava fuori dall'hotel e ci portava all'appuntamento successivo. Quindi ho lasciato il suo albergo e sono stata accompagnata a un altro, e a un altro, e a un altro ancora. Siamo rimasti in giro fino a quando il sole è calato. Non avevo capito che potevamo dire quando volevamo fermarci, quindi alla fine ho detto con un filo di voce: «Possiamo andare a casa, per favore?» E l'autista ha risposto: «Ma certo», e mi ha portato a casa. Onestamente a quel punto ero abbastanza a pezzi, ma avevo guadagnato quella che mi sembrava essere una fortuna. Un sacco di prostitute parlano di questa sensazione di varcare un limite, la prima volta che ti pagano in cambio di sesso. Una volta che l'hai fatto, non puoi tornare indietro. Anche se considero la prostituzione il mio lavoro e non un'identità, la società la vede diversamente. Non è una cosa che puoi fare e poi smettere e dimenticartene. Ho continuato a lavorare ad Amsterdam finché ho incontrato un ragazzo con cui ho avuto una relazione terribile, violenta. Ho smesso di fare la escort per lui, era disgustato. Anche se a quel punto non era certo il sesso la cosa più pericolosa che facevo. Al tempo ero terribile come escort. Tutti si lamentavano di me. Oggi con i forum e le recensioni online non durerei 5 minuti. Una volta lasciata Amsterdam, ho lavorato in giro per il mondo per 6 anni, Sydney, New Orleans, Fort Lauderdale, Londra. Non riuscivo a fare lavori legali perché non mi reggeva la testa. E la cosa positiva del sesso è che non devi lavorare molto. Quando avevo 26 anni ho smesso di lavorare nel mondo del sesso perché mi sono innamorata. Ho cominciato a lavorare in un bar. È molto più faticoso. Ho questi ricordi di me stessa dietro al bancone, totalmente dissociata, quasi nemmeno lì, per 8 ore di turno. Io e lui siamo stati insieme 4 anni e dopo che ci siamo lasciati non pensavo di tornare alla prostituzione, ma ho incontrato altre prostitute, ho scoperto l'attivismo e ho pensato che forse avrei potuto riprovare. E così è stato. Spero che un giorno questo lavoro sarà trattato come tutti gli altri e le persone che lo fanno possano organizzarsi e lavorare come vogliono, con la certezza che i loro diritti saranno rispettati. Se c'è chi ha tanto dato e poco avuto, tu non sei certo amica mia. Io questa sera bevo alla salute della mia prima compagnia. Voglio parlare dell'amore, proprio di quello che ho pagato in questa vita tanto avara. Si paga tutto e ben pesato. Amore facile di un'ora, dove non giochi la tua vita. C'è un po' di gioia e mai dolore, chiudi la porta ed è finita. La storia che vi abbiamo raccontato, quella di Lucy Foster, l'abbiamo trovata, scritta direttamente di suo pugno su Vice. Si intitola La prima volta che mi hanno pagata per fare sesso. Questa è la storia, ora sentiamo Le strade in diretta, poi torniamo qui a Linee d'ombra. Linee d'ombra, storie dei nuovi vizi capitali. E rimaniamo un po' sullo stesso argomento di poco fa, nel senso che vi abbiamo raccontato la storia raccontata da Lucy Foster, che adesso è un'attivista che difende i diritti delle sex worker, sono chiamate così le donne che lavorano con il sesso, con la sessualità, appunto. L'abbiamo letta su Vice, ma abbiamo trovato anche un'altra storia che è molto diversa nei toni, è molto diversa, diciamo, c'è meno malessere, c'è meno mal di vivere, soprattutto raccontato nella prima parte della vita che abbiamo sentito da Lucy Foster. Questa è la storia di una giovane donna che va a Londra per studiare, va a Londra per lavorare e poi lentamente scivola in un mondo che è quello delle escort di lusso. Questa l'abbiamo tratto dall'inizio di un libro che si intitola proprio Diario intimo di una squillo per bene, pubblicato in Italia da Sonzogno. Lei si è data un nome che ovviamente è un nome finto per rimanere nell'anonimato ed è Belle de Jour. La prima cosa che dovete sapere è che sono una puttana. Non in senso colloquiale. Non uso la parola come sinonimo di un lavoro d'ufficio o di un faticoso incarico nei nuovi media. Molte mie amiche vi diranno che svolgere un lavoro temporaneo per un anno o finire nel settore vendite equivale a prostituirsi, ma non è vero. Lo so, perché ho fatto la precaria, ma ho anche scopato per soldi. E le due cose non hanno nulla in comune. Non sono nemmeno sullo stesso pianeta. La seconda cosa invece è che vivo a Londra. Questi due fatti possono essere collegati o meno, ma sappiate quantomeno che non è una città economica. La prostituzione è un'occupazione stabile ma non impegnativa. Incontro un sacco di gente. Chiaro, quasi tutti uomini che in gran parte non rivedrò mai più e con cui mi si richiede di scopare senza curarmi del fatto che siano coperti di nei pelosi, che abbiano in tutto 3 denti o che vogliano che ricrei una fantasia sulla loro insegnante di storia delle medie. Ma è sempre meglio che guardare l'orologio fino alla prossima pausa caffè. Così, quando le amiche tirano fuori la logora analogia fra lavoro aziendale e prostituzione, annuisco con l'aria di chi la sa lunga, mentre buttiamo giù cocktail e ci domandiamo che fine abbia fatto tutta la nostra promettente gioventù. Sono capitata a Londra come migliaia di altri neolaureati. Dato che dovevo rimborsare solo un piccolo prestito studentesco e che avevo qualche soldo da parte, pensavo di potermela cavare per qualche mese. Ma le mie risorse erano state rapidamente prosciugate dall'affitto e da migliaia di spese insignificanti. Le mie giornate si esaurivano nello studio minuzioso delle offerte di impiego, nella stesura di lettere entusiaste e servili, anche se sapevo che non mi avrebbero mai convocata per un colloquio, e nella furiosa masturbazione. Poco dopo essermi trasferita, ricevetti un SMS da una persona conosciuta tramite il mio amico N. Questa è la sua città, e N sembra conoscere tutti. Così, quando si era preso la briga di presentarmi quella signora, gli avevo prestato attenzione. «Ho sentito che è in città. Mi piacerebbe molto vederla quando ha tempo», diceva al messaggio. Era di una donna matura e sexy, con accento perfetto e gusto impeccabile. Quando l'avevo incontrata, pensavo che fosse fuori della mia portata, ma appena mi aveva voltato le spalle, Anne mi aveva fatto capire, a suon di sussurri, che andava come un treno e che le piacevano anche le donne. Le risposi. Mi richiamò quasi subito per dire che lei e il suo nuovo compagno avrebbero gradito cenare con me. Caddi in preda al panico, prima di decidere cosa mettermi, e dilapidai il poco che mi restava in un taglio di capelli e un completo intimo nuovo. La sera della cena, setacciai il guardaroba cambiandomi dozzine di volte. Alla fine scelsi un maglioncino attillato color acquamarina e un paio di pantaloni fumo di Londra. Un po' impiegatizio forse, ma moderatamente sexy. Arrivai al ristorante con mezz'ora di anticipo. Mi dissero che potevo sedermi solo dopo l'arrivo dei miei ospiti. Spesi gli ultimi soldi per bere qualcosa al bar, sperando che offrissero loro. La coppia arrivò. Ci fecero accomodare a un tavolo d'angolo, lontano dagli occhi dei camerieri. Io ero seduta in mezzo. Lui mi guardò dentro la scollatura mentre lei parlava di gallerie d'arte e sport. Quando sentii la mano di lui che mi scivolava sul ginocchio destro, il piede di lei, coperto dalla calza, prese a risalire l'interno dei miei pantaloni. Dopo un'ora, eravamo a casa loro. L'idea di vendere sesso attecchì. Si propagò come un'infezione, ma per un po' seppellì la mia curiosità sulla prostituzione. Mi feci prestare dei soldi dagli amici e cominciai a frequentare seriamente un ragazzo. Fu una piacevole distrazione fino a quando non mi arrivò la prima comunicazione di scoperto della banca che mi suggeriva di chiedere un prestito. L'infezione prudeva sempre più a ogni domanda di impiego che veniva respinta. Non riuscivo a smettere di pensare all'effetto di farmi trascinare via sul sedile posteriore di un taxi nel cuore della notte. Ero in grado di farlo. Dovevo solo verificare. Non molto tempo dopo che abbi deciso, iniziai a tenere un diario. Call me up and I'll come over every single time. In your driveway, still alone, I'm trying to rewind. In your bedroom, in the dark, we play with all mistakes. After midnight, you're asleep, but I stay wide awake. Morning comes and we start over. Over. Slowly start to climb. In my doorway, we don't talk, there's nothing left to say. Grab your hair and pull you close, but I am miles away. E ora andiamo verso la fine di questa puntata, riprendendo la nostra storia seriale che è dedicata all'ira ed è la storia che viene raccontata dalla viva voce di Giorgio Bazzega, figlio di Sergio Bazzega, ucciso dalle Brigate Rosse negli anni di piombo di questo paese, ucciso qui a Milano. È una storia di ira perché appunto, così come la raccoglie e come la racconta Mauro Pescio grazie alla voce di Giorgio, è una storia che parla, e qui Giorgio lo dice molto chiaramente, parla del desiderio di vendetta e parla di come l'ira e il desiderio di vendetta si fomentino l'un l'altro. Con mia mamma parlavamo pochissimo di quello che era accaduto. Lei era una donna di 28 anni, io un bambino di 2 anni e mezzo. Non avevamo gli strumenti per affrontare da soli una roba del genere. Avevamo la fortuna di avere una famiglia